Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani e Salva Danaio, a tutti un buon inizio settimana. Sicuramente è un Salva Danaio un po' vuoto quello delle persone delle quali parliamo oggi, perché oggi parliamo delle persone che hanno perso il posto di lavoro e che sono state messe fuori dall'azienda appunto attraverso un licenziamento. Prosegue in questo modo la nostra iniziativa di approfondimento dedicata ad un tema estremamente importante, appunto il lavoro. Siamo alla quarta puntata dei nostri lunedì del lavoro e oggi parliamo proprio di licenziamento, che sicuramente è stato il capitolo più contestato della riforma del mercato del lavoro che porta il nome del ministro Elsa Fornero, riforma diventata legge lo scorso 18 luglio. Si tratta del capitolo appunto sulla disciplina dei licenziamenti, come potete capire la parte in assoluto più delicata dell'intera riforma. Per chi si ricorderà e ha seguito il dibattito intorno alla questione, la parte più controversa e accolta anche con grande malumore da parte sindacale è stata l'introduzione del nuovo trattamento giuridico per i licenziamenti individuali per ragioni economiche. Quindi nella sostanza un'azienda, se non può andare avanti perché naturalmente a causa della crisi ha notevolmente ridotto il suo business, può anche scegliere appunto di licenziare una persona, un lavoratore, adducendo appunto a ragioni di tipo economico. È stato rivisto da questa legge anche l'impianto del reintegro lavorativo, se il lavoratore fa ricorso e naturalmente appunto gli viene riconosciuta la facoltà di essere reintegrato sul posto di lavoro, questa reintegrazione, questo reintegro può essere pieno o attenuato. Quindi ci sono molte novità che questa riforma ha portato. Noi vi spiegheremo e soprattutto cercheremo di capirlo anche a livello pratico cosa prevede con le modifiche approvate vigenti, dunque la versione finale delle norme che regolano il licenziamento individuale e per giusta causa e gli eventuali ricorsi impugnabili. Io mi rendo conto che è un tema molto delicato, noi naturalmente cammineremo su questo argomento in punta di piedi e lo faremo cercando davvero di spiegarvi quali sono appunto le novità, la portata di queste novità. E come sempre io vorrei anche ascoltare i nostri ascoltatori all'800240024 e vorrei appunto che ci deste le vostre testimonianze. La vostra azienda in difficoltà vi ha comunicato l'interruzione del rapporto di lavoro esponendo quali ragioni e poi soprattutto con che modalità lo ha fatto? Cosa avete fatto voi? Vi siete guardati intorno? Avete ricercato un nuovo impiego oppure così vi siete messi un po' a litigare con l'azienda per capire se effettivamente magari dietro a questo licenziamento che è stato giustificato con la crisi di carattere economico c'era invece un'altra motivazione, perché poi anche questo capita naturalmente. E allora 800240024 il numero verde per i vostri interventi in diretta, 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Avete anche altre modalità per interagire con noi, il nostro indirizzo di posta elettronica è salvadanaio@radio24, il nostro profilo Facebook è salvadanaio-radio24, siamo su Twitter a 24 salvadanaio, non mi ricordo come termina l'indirizzo. salvadanaio@salvadanaio24. Stamattina avevo il vuoto in testa, forse colpa anche della nebbia che imperversa su Milano, tutta questa umidità che ci rabbuia un po' tutti. Allora, la borsa rapidamente, la borsa stamattina è negativa, la settimana si apre male sui listini del vecchio continente, in qualche maniera forse gli operatori richiamano anche i leader politici che oggi si riuniscono con l'Eurogruppo per ancora una volta rifare il punto della situazione sulla Grecia, che attende la nuova erogazione di aiuti, ma qua c'è ancora uno stallo politico piuttosto preoccupante. Allora sulla scia di questa indecisione gli operatori preferiscono prendere profitto dai guadagni di settimana scorsa. C'è meno 0,7% a Parigi, meno 0,30% a Francoforte, Londra meno 0,47%, Milano perde lo 0,44%. Questo è un po' la giornata, la seduta, non ci sono tantissimi altri spunti. Tra l'altro oggi tornano a pieno regime le contrattazioni a Wall Street, E vedremo appunto se dagli Stati Uniti arriveranno degli stimoli più consistenti. Ricordiamo che c'è stato un fine settimana piuttosto lungo per il ponte del ringraziamento. Giovedì scorso mercati chiusi in America, venerdì invece sono stati aperti solo per mezza giornata. Allora, noi oggi affrontiamo appunto a Salvadanaio di nuovo il tema della riforma del mercato del lavoro, andando a spiegare ai nostri ascoltatori come funziona la nuova disciplina dei licenziamenti, capitolo delicatissimo, lo comprendiamo, per tutte le parti in gioco, per le aziende, per i lavoratori, per il mondo sindacale, quindi un fortissimo impatto sociale anche, e quindi dobbiamo trattarlo bene questo argomento, e lo faremo al meglio con il nostro ospite di questa mattina, che saluto e ringrazio, l'avvocato Francesco Rotondi, partner dello studio Lab Law, specializzato in diritto del lavoro. Avvocato, bentornato, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per avermi richiamato ancora. Eccoci qua, allora la richiameremo anche in futuro, non si preoccupi, molto spesso naturalmente, perché abbiamo bisogno di conoscere molto bene questi argomenti, di affrontarli con le dovute cautele, e noi oggi appunto spiegheremo ai nostri ascoltatori l'ABC di questo argomento. Intanto vi faccio ascoltare che film ha scelto oggi per accompagnarci in questa puntata il nostro Marco Lombardo. Dopo 30 anni di servizio per la mia azienda, questo è quello che ricevo in cambio. E mandano pure un idiota come lei qui per venire a dirmi che da adesso non ho più un lavoro. È a lei che dovrebbero dire che non ha più un lavoro. Ci vuole una bella faccia tosta a venire qui a licenziare la migliore venditrice. E domani lei torna a casa con le tasche gonfie, piene di soldi, e io torno a casa senza busta paga. Io sono, che dire, sono senza parole. È un fulmine a ciel sereno per me. Come faccio da uomo a tornare a casa da mia moglie e spiegarle che ho perso il lavoro? A livello di stress, ho sentito dire che perdere il lavoro è come una morte in famiglia. Ma in verità mi sento come se la famiglia fossero le persone con cui lavoravo. E io sono il morto. Non posso permettermi di stare senza lavoro. Ho un mutuo sulla casa, ho dei figli. Come mi sento quando arrivo in ufficio per licenziare 35 persone? Il modo in cui dirglielo, la faccia da fare, sono al di là del bene e del male. Abbiamo fatto, per la verità, un accoppiamento abbastanza originale, quello tra un film americano e una canzone italiana. Il film che abbiamo scelto è Tra le nuvole, del 2009. Il protagonista George Clooney è nel film Ryan Bingham, è un cinico manager definito un tagliatore di teste aziendale che vive perennemente in viaggio, chiamato appunto dalle società a ristrutturarle e naturalmente mettendo fuori molti lavoratori. Negli Stati Uniti il funzionamento forse è un po' più dirompente rispetto a quanto per fortuna non accada in Italia. La canzone invece che ha accompagnato questo brano di questo film è Il Rubacuori, una canzone dei Tiro Mancino, dove appunto lo stesso si parla dello stesso argomento, e quindi manager che molto spesso si trovano in questa posizione molto difficile di dover riorganizzare le aziende, naturalmente comunicando a molti lavoratori che non si ha più bisogno di loro. Per cui, avvocato Rotondi, eccoci di nuovo a noi, rimaniamo appunto alla legge, sulle implicazioni appunto che questi meccanismi determinano. È inutile che facciamo, come dire, dei resoconti di luoghi comuni, è inutile, sappiamo quanto sia difficile per ogni parte in causa mettere in atto fuoriuscita appunto di lavoratori. Andiamo alle novità che questa riforma del lavoro del ministro Fornero ha introdotto, e l'articolo 1 di questa riforma, che ricordo nei parametri la legge 92 di quest'anno, introduce in due commi, il 37 e 41, un nuovo trattamento giuridico per i licenziamenti individuali per ragioni economiche. Non esisteva questa fattispecie in precedenza, avvocato? Dunque, come ho avuto modo anche di dire la volta scorsa, dobbiamo rifare un po' il punto, perché anche qua c'è stata una cattiva comunicazione. Allora, la riforma interviene sull'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, e l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori è l'articolo che tratta delle sanzioni collegate alle ipotesi di licenziamento illegittimo, nullo, inefficace. La sanzione precedente alla riforma era, comunque fosse andata la vicenda, la reintegrazione nel posto di lavoro. E sto parlando ovviamente per tutte le imprese che occupavano più di 15 dipendenti assoggettate ovviamente alla legge 300 del 70, ovvero Statuto dei lavoratori. Oggi invece l'articolo 18 ha come titolo tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Questa è la modificazione che è intervenuta, ovvero a fronte di un licenziamento illegittimo non abbiamo come sanzione conseguente ed automatica la reintegrazione nel posto di lavoro, ma possiamo avere una situazione che potrebbe essere la reintegrazione, un'altra situazione potrebbe essere meramente risarcitoria, con poi una declinazione di varie modalità di risarcimento. Ecco, quindi siamo già, come dire, alla fase successiva al licenziamento, quando evidentemente si è scatenata la conflittualità con l'azienda che ha preso questa decisione, per cui il lavoratore vuole capire se è stata presa o meno una decisione corretta, e si fanno tutti i ricorsi che si devono fare, e lì poi si tratta di capire quali conseguenze hanno le decisioni e le pronunce dei tribunali del lavoro. Andiamo però alle motivazioni per cui questi licenziamenti individuali possono essere fatti. Ragione economica, appunto, come la si stabilisce, avvocato Rotondi? Perché molto spesso può anche capitare che magari si crei una certa conflittualità aziendale, che dietro effettivamente ad un licenziamento di natura individuale per ragioni economiche se ne nasconda un altro di più forse nascosta natura disciplinare. Forse la legge ha voluto ben chiarire i due ambiti e separarli nettamente? Assolutamente no. Perché proprio la conseguenza di quella che era la mia premessa era questa, che non è nulla è cambiato in termini di qualificazione dei licenziamenti. I licenziamenti prima dell'entrata in vigore di questa riforma si distinguevano in giusta causa, giustificato motivo soggettivo e giustificato motivo oggettivo. Oggi si distinguono ancora in giusta causa, giustificato motivo soggettivo e giustificato motivo oggettivo. Andare a dire che esiste il giustificato motivo economico è un errore, perché il giustificato motivo economico coincide con il cosiddetto oggettivo, cioè un licenziamento che non ha a che vedere con la persona, non ha a che vedere con le capacità professionali della persona, del lavoratore, non è disciplinare perché non gli si contesta un qualsiasi tipo di comportamento, ma è un licenziamento, tra virgolette, economico, che è questa nuova formula che hanno inventato ma che non c'è nella legge, che è afferente questo licenziamento alla unità produttiva, quindi all'impresa, a ragioni di carattere organizzativo, a ragioni di carattere produttivo o tecnico. Questo per dire che il licenziamento viene intimato su delle ragioni che prescindono dalla figura del lavoratore e quindi non traggono origine da elementi del lavoratore. La comunicazione di un tipo di licenziamento come questo, lo stesso ha degli obblighi a cui deve adempiere, avvocato? Ci sono stati dei cambiamenti introdotti dalla riforma? Io mi rendo anche conto che in un'azienda che è in difficoltà il lavoratore percepisce anche quale sia il clima, che magari questo momento potrebbe anche arrivare. Questo non significa che però l'azienda non debba appunto seguire un percorso che sarà, immagino, con grande chiarezza fissato dalla legge. Cosa deve fare l'azienda che per ragioni economiche si trova costretta appunto a lasciare a casa dei dipendenti? Quale tipo di e a chi comunicazioni deve fare? Ecco, allora, il licenziamento per legge va sempre irrogato attraverso la forma scritta, e quindi ci deve essere una comunicazione scritta che deve contenere specificamente quali sono le ragioni perché si giunge al licenziamento del singolo lavoratore. La riforma ha introdotto un meccanismo, diciamo così, preventivo di comunicazione di queste ragioni non solo al lavoratore ma anche alla direzione territoriale del lavoro. Perché questa formula innovativa? Perché si è voluto tentare, attraverso l'introduzione di questo sistema, un componimento, diciamo, cercare di trovare una soluzione prima di irrogare il licenziamento, per evitare da una parte di andare in tribunale, e quindi il famoso discorso collegato alla troppa presenza di contenzioso nei nostri tribunali. E in secondo luogo tentare attraverso la mediazione di un terzo di giungere a una soluzione che potrebbe anche non essere quella definitiva dell'allontanamento, ma quella di cercare attraverso l'analisi della situazione una soluzione che potrebbe anche essere il cambiamento di mansione, piuttosto che magari un trasferimento, una trasferta, insomma tentare una via che potrebbe essere diversa dal licenziamento, alla quale magari se le due parti interessate dovessero approcciare la materia hanno troppo pathos, mi viene da dire, per poterla comprendere. Quindi mi faccio capire, questa comunicazione che il lavoratore del licenziamento deve fare alla direzione territoriale del lavoro è una sorta di alert, la società dice guardi, io sono in procinto di fare questo licenziamento, oppure comunque le comunicazioni sono contestuali, quella alla direzione territoriale del lavoro e quella al lavoratore? Bravissima, è un alert. Io ho intenzione di procedere al licenziamento di questo lavoratore per queste ragioni e questa comunicazione te la faccio in modo tale che tu possa convocarmi a me, datore di lavoro, e al lavoratore e verificare la situazione. Ovviamente l'output di questa procedura potrebbe essere il raggiungimento di un accordo, come potrebbe essere il mancato raggiungimento di un accordo. A fronte di questa situazione il datore di lavoro ha la possibilità di procedere invece alla intimazione del licenziamento vero e proprio. Ecco, una strada di questo tipo presuppone anche che molto spesso all'interno delle aziende si arrivi alla necessità di licenziare determinate figure professionali perché magari sono andate esaurite determinate funzioni, ma si creano altre opportunità, quindi magari quel lavoratore non ha voglia di fare questo passaggio aziendale e quindi forse il datore di lavoro, non lo so, persegue questa strada cercando di andare alla direzione territoriale del lavoro, dove lì può parlare con il lavoratore, magari convincerlo del fatto che chiusa una determinata opzione in azienda se ne può riaprire un'altra, qualora appunto in azienda invece questa questione non possa essere affrontata con serenità. Mi viene in mente anche una situazione di questo tipo, avvocato. Certamente, quello che dicevo prima, noi dobbiamo ricordarci sempre che l'ha detto bene la canzone e l'ha ben rappresentato il richiamo al film di Clooney. Cioè l'evento licenziamento è un evento molto particolare, è un evento non solamente contrattuale, quindi un evento sociale, familiare, personale, psicologico, e dei meccanismi che potrebbero sembrare automatici o razionali, come immaginare una riqualificazione piuttosto che accettare una soluzione diversa piuttosto della perdita del lavoro, in quel momento il lavoratore in primis, perché riceve il provvedimento, magari non ha la lucidità per comprendere quelle che potrebbero essere delle conseguenze negative oppure delle opportunità, e quindi si tenta una mediazione attraverso anche l'intervento di un terzo. Ci state chiamando in tanti, Stefano da Monza ci scrive anche, non so se l'avete già detto, ma in caso di licenziamento individuale per motivi economici è sempre dovuto al dipendente una buona uscita, e se sì in che misura? Affronteremo anche questo aspetto, Stefano, molto volentieri. Saluto anche l'ascoltatore che dice brava, finalmente l'ha ammesso di avere la testa vuota, lo ringrazio davvero molto affettuosamente. 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi in diretta, scriveteci ancora al 349 238 6666. Anche Luca da Rimini ci scrive: ho due ragazzi in maternità, nessun dipendente, ho finito i soldi, non riesco più ad anticiparli per l'INPS, ho una via d'uscita. Luca, le siamo vicini. Uè, dottore, complimenti per il nuovo incarico. Ah, e ti pareva che non lo sapevi di già? Allora? 25 persone da segare nelle funzioni centrali, entro l'anno. Complimenti. Grazie. La verità, caro mio, è che se voi vendeste di più non ci sarebbe nessuno da segare. Come si sega la gente? Ci sono due fasi, preparazione e colloqui. La prima fase. Che cos'è? Annusi l'aria, pressi, vai nell'archivio del personale e studi le schede. La seconda è quella super psichica, i colloqui con i condannati, pressi. Prima parte gli dici con le buone che fera di val. Poi però lo stai ad ascoltare mentre si sfoga a raccontarti la sua vita da sfigato. Lasci passare una settimana, poi gli fai la tua offerta. Ma ricorda, pressi subito il muro, perché se iniziano a pensarci poi ti sbanca. Ai vecchi non dare un cazzo, a quelli cui manca un anno o due la pensione il meno possibile, ai giovani li fai salire su un pullman e li butti giù da un burrone. Sono due tipi di aziende che segano con due lire. Tipo A, non accetti, ti mettono in mobilità e non siamo noi. Tipo B, rifiuti le due lire, non c'è problema. Scrivania nel sottoscala, segretari che quando passano ti sputano, nessuno ti caga, incarichi di lavoro assurdi, tutti ti evitano. Dopo una settimana così sei bollito e accetti le due lire cantando. Sì, ma qui da noi non è così. Qui da noi, people first. La gente prima di tutto, non scordarlo, pressi. Noi rispettiamo le persone, uè! Quanto cinismo anche in questo trailer di questo film che è Volevo solo dormirle addosso, un film del 2004 diretto da Eugenio Cappuccio. Marco Pressi è un giovane dipendente di una multinazionale il cui ruolo è quello di selezionare e formare il personale, nonché motivarlo, però i suoi superiori gli propongono una sfida che non ha nulla a che fare con il suo lavoro originale: raggiungere il target di 25 dipendenti licenziati entro la fine dello stesso anno, ma lui non sa naturalmente cosa fare, che strategie adottare per naturalmente mandare a casa i suoi stessi colleghi. Insomma, però probabilmente all'interno delle aziende funziona anche così. Avvocato Rotondi, qualche volta bisogna guardare alle cifre nude e crude e capire come prendere queste decisioni nella maniera più indolore possibile, semmai potesse essere indolore un licenziamento subito se non si ha poi un'alternativa. Che ne pensa? Ma io penso che decisioni di questo genere non possono e non dovrebbero mai essere prese senza delle considerazioni o con addirittura un divertimento cinico. È evidente che la pesantezza di una risoluzione di un rapporto di lavoro, e questo lo dico a prescindere dalla giustificatezza o meno, più o meno grande a seconda di quello che il mercato poi ci offre. Chiaro che in una situazione come quella odierna in Italia, ma credo un po' nel resto del mondo, diventa un evento terribile, perché la possibilità di ricollocarsi è molto molto prossima allo zero in questo momento, soprattutto per certe categorie. Pensiamo solamente ai manager di un certo livello che a 50 anni non riescono a prendere la pensione, rientrano nella categoria degli esodati, ma naturalmente il sistema industriale non ti ricolloca soprattutto con lo stesso profilo, per cui davvero possono verificarsi delle situazioni davvero vicini anche alla tragedia all'interno di certe famiglie. Detto questo, noi oggi dobbiamo continuare con un atteggiamento altrettanto cinico di quello che abbiamo sentito nel film a spiegare come funzionano i nuovi licenziamenti individuali per ragioni economiche. Abbiamo spiegato prima come funziona nella comunicazione questo licenziamento, sia nei confronti del lavoratore purtroppo che suo malgrado appunto lo deve subire, ma anche quell'obbligo di comunicazione che deve essere fatto alla direzione territoriale del lavoro, e abbiamo spiegato appunto che differenza c'era con il regime precedente. Adesso direi, avvocato, di ascoltare qualche amico che ci chiama da casa all'800 24, e poi andremo anche alle possibili conseguenze di un licenziamento che venga valutato come illegittimo, perché qua abbiamo uno spettro piuttosto vario appunto di novità, un ventaglio che si apre da reintegrazione a risarcimento, a loro volta distinti tra applicazione piena o attenuata. Un gergo un po' complesso che adesso cercheremo appunto di concretizzarvi. Direi di sentire subito intanto Eros da Rimini. Buongiorno. Buongiorno Deborah, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Io volevo solo portare la mia piccola testimonianza senza alcuna pretesa, ma sono già da alcuni anni, diciamo, coinvolto in una situazione che si chiama così ristrutturazione aziendale, che diventa, per chi ci casca dentro come me e i miei colleghi, prima cassa integrazione e poi mobilità. Io ho avuto questa esperienza anche in un'altra situazione, perché ho lavorato nelle multinazionali, e mi viene spontaneo fare un confronto con i provvedimenti europei. Spesso da noi, anche l'ultimo provvedimento che oggi avete spiegato così bene, così chiaramente, va in una direzione, come sempre, no? Si parte da un principio e da un'affermazione positiva, e poi purtroppo chi volontariamente lo interpreta male, ne approfitta, finisce per per manipolare un'intenzione buona e farla diventare molto meno buona. I provvedimenti europei vanno nella direzione, diciamo, del mantenimento del posto di lavoro, questa è un po' la filosofia, e dell'aiuto da parte del governo, dello Stato centrale alle aziende che ne hanno bisogno, congiunturalmente sono sfavorevolmente combinate in questo momento, ma io ti aiuto se tu comunque conservi il tuo patrimonio di conoscenza. Qui non è così, qui quando tu hai un'eccedenza di lavoratori, adesso addirittura basta pagare e te ne liberi senza che tutte le storie che ho sentito su purtroppo sul fatto che nessun imprenditore vorrebbe perdere personale qualificato. Io sono quadro dirigenziale, mi hanno, come i miei colleghi, mi hanno messo da parte come se niente fosse. Si parte da un principio positivo, poi chi vuole approfittarne purtroppo... Si fa difficoltà, dice lei, a declinarlo in termini altrettanto positivi quando si devono poi concretizzare certe misure, Eros, nella sostanza. Sì. La ringrazio. Avvocato Rotondi, è molto difficile dare dei giudizi sull'impianto di una norma che è frutto di trattative estenuanti, durissime, di cui leggiamo costantemente sui giornali. Hanno ragione tutti quanti quelli che poi trattano, perché non abbiamo nessun motivo di dubitare delle validità delle ragioni aziendali, perché in questo momento di crisi non è che si possono tenere 100 persone se si produce e si ha necessità di impiegarne 50. Naturalmente i sindacati dicono il loro, qua come la si commenta? La si commenta male, avvocato Rotondi, però anche forse ha ragione Eros. Ma io devo dire che non ho una buona opinione della riforma, ma non sono nel coro di questi commenti tutti negativi, e mi spiego meglio. Allora, anzitutto approfitto della telefonata per fare un distinguo importante. Quello a cui si riferiva l'ascoltatore era una situazione ben diversa da quella che abbiamo analizzato, perché si riferisce agli episodi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che portano o all'utilizzo della cassa integrazione, come abbiamo sentito, oppure al cosiddetto licenziamento collettivo, che ha tutt'altra procedura, è una procedura sindacalizzata, nel senso che ci sono tutta una serie di comunicazioni che vanno fatte al sindacato dall'imprenditore e poi dopo, magari se abbiamo tempo, vi la spiegherò meglio. Quello di cui abbiamo trattato fino in questo momento è il licenziamento individuale. Perché dico il giudizio non può essere così negativo? Perché in realtà il presupposto di applicazione di una legge deve essere sempre la correttezza e la buona fede. È evidente che se noi andiamo ad analizzare i casi in cui l'imprenditore approfitta di una normativa o il lavoratore altrettanto approfitta di alcuni diritti che sono riconosciuti sacrosanti, ma li utilizza in modo sbagliato, analizziamo quella che è la patologia del diritto, non il diritto. Allora io dico, in realtà la norma, quella di cui stiamo parlando, è una norma che afferma un principio secondo il quale se il licenziamento è legittimo anche prima della riforma e anche in tutti gli stati europei, l'imprenditore non ha nessuna sanzione e il lavoratore deve accettare, diciamo, il provvedimento, perché sta a significare che c'è una valutazione di un magistrato che ritiene fondate le ragioni. La modifica avviene unicamente nell'impianto sanzionatorio, laddove a fronte di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, così come abbiamo sentito o definito economico, vi fosse l'accertamento della illegittimità perché quel motivo non è così ben chiaro, il lavoratore non ha più diritto alla reintegrazione, ma unicamente a un risarcimento di natura economica che va da 12 a 24 mensilità. Questa è una norma che si allinea, direi, invece a quello che normalmente accade negli altri ordinamenti, che non hanno la cosiddetta reintegrazione automatica, che era il tipico nostro, la tipica nostra sanzione. Abbiamo risposto in questa maniera, mi scusi se la interrompo, avvocato, anche l'ascoltatore che citavo prima nell'SMS, Stefano, che dice appunto forse è stato protagonista di un licenziamento individuale per motivi economici, al dipendente è dovuta sempre questa buona uscita, ecco, nel caso in cui il lavoratore l'accetti e non proceda ad un ricorso, perché noi abbiamo detto adesso in che cosa consiste il regime risarcitorio pieno, no? Il riconoscimento di queste mensilità dalle 12 alle 24, oppure c'è il regime attenuato dalle 6 alle 12. Nel caso in cui invece il lavoratore non faccia ricorso e che non ritenga di dover contestare il licenziamento per motivi economici, la buona uscita in quel caso come funziona? Allora, al lavoratore che viene si trova in questa situazione viene riconosciuto per legge il cosiddetto preavviso di licenziamento e questo è riconosciuto a prescindere da tutto quello che abbiamo detto. Quindi c'è un periodo che è previsto dai contratti collettivi nazionali che prevede che in caso di licenziamento per giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo, quando viene intimato il licenziamento al lavoratore spetta il cosiddetto preavviso, cioè è un periodo che è coperto sia a livello meramente economico oppure addirittura con la prestazione di lavoro, che varia a seconda dell'anzianità di servizio e del livello di inquadramento. Quindi io licenzio Paolo Rossi, primo livello impiegatizio del contratto commercio, oggi intimo il licenziamento e a lui devo erogare anche però un mese, due mesi, tre mesi di preavviso. Questo è un tema. La buona uscita in realtà è un qualcosa che è afferente all'accordo fra le parti, certo. Cioè il lavoratore dice io non faccio causa e troviamo il modo di rendermi il più indolore possibile questa decisione. Sì. Esatto, è chiaro che lì dipende molto dai rapporti che si hanno, da quello che si è costruito in azienda, dalla situazione economica dell'azienda stessa, certo. Non dimentichiamo perché ci sono situazioni veramente gravissime. Ed è chiaro che però il legislatore, avendo dato un'indicazione che va da un minimo a un massimo, orienta in un certo modo anche queste transazioni, certo. Perché la sanzione ovviamente dovrà avere un punto di riferimento. Il povero Steve ha lavorato qui per 7 anni. Mai avuto una riunione con me, mai incrociato nel corridoio, mai chiacchierato nella saletta caffè. Perché io non lavoro qui. Io lavoro per un'altra azienda che mi noleggia dei codardi come il capo di Steve che non hanno le palle per scaricare i propri impiegati e a volte per un buon motivo, perché la gente è da fuori di testa quando viene licenziata. D'accordo. Ho sbagliato qualcosa. Insomma, posso fare qualcosa in modo diverso? Questa non è una valutazione della sua produttività. Non la prenda su un piano personale. Su un piano personale? Steven, vorrei che lei esaminasse questo pacchetto con attenzione. Mi creda, troverà delle ottime risposte qui dentro. Sono certo che mi sarà davvero utile. Un pacchetto. Grazie del pacchetto. Sa, chiunque abbia costruito un impero, cambiato il mondo, è stato seduto lì dove è lei adesso. È proprio perché era seduto lì che è riuscito a farlo. È la verità. Bene, ecco. Ora si prenda la giornata. Raduni tutte le sue cose e poi domani... Sì, si dedichi allo sport. Vada a fare una bella corsetta, stabilisca delle sane abitudini e presto ritroverà un equilibrio. Mi serve il suo badge. Insomma, non è che se ti licenzia George Clooney, per quanto sia uno degli uomini più belli del mondo, la pillola viene edulcorata. Chiaramente un uomo la può pensare in questa maniera, magari una donna rimane un po' più affascinata, ma direi proprio di no, grazie, speriamo di non avere mai a che fare con persone di questo tipo. Detto questo, avvocato Rotondi, 5 minuti di tempo, metto dentro un paio di ascoltatori, poi prometto, questo percorso sulla riforma del mercato del lavoro va avanti con Salvadanaio, quindi noi ci prenderemo tanti lunedì dedicati a questo tema delicatissimo, che stamattina chiaramente toccando uno dei capitoli più seri e più delicati ha dovuto appunto trattarlo solamente per i sommi capi. Allora sentirei Roberto da Roma. Roberto, buongiorno, rapidissimo se ce la fa, grazie. Sì, buongiorno, senta, una cosa proprio rapida. Sono stato licenziato nel 2009 per motivo oggettivo, insomma questa roba qui. Ora posso fare ricorso? Sulla base della nuova norma, io credo che intanto i nuovi licenziamenti nella modalità in cui li abbiamo spiegati stamattina valgono dal 18 luglio in avanti, avvocato Rotondi, no? Corretto. Ecco, quindi che cosa può fare Roberto per un provvedimento che ha subito nel 2009? Troppo tardi per fare tutto? Beh, lui anzitutto bisogna verificare in quale ambito di tutela si trova o si trovava, cioè se si trovava in una società alla quale veniva applicata la legge 300 del 70, l'articolo 18, oppure la 604 del 66, nel senso più o meno di 15 dipendenti, la famosa tutela reale obbligatoria. Se si trovava nella situazione della tutela obbligatoria, quindi della 604 del 66, c'è ben poco da fare. Se si trovava invece in ambito di applicazione del vecchio articolo 18, se ha impugnato il licenziamento nei 60 giorni successivi all'erogazione di licenziamento, oggi può ancora impugnare col deposito di un ricorso. Ecco, nella disciplina nuova invece, avvocato Rotondi, un lavoratore licenziato che ritiene che questo licenziamento sia illegittimo, che tempi ha per presentare il suo ricorso in giudizio? Ha 180 giorni dalla data di comunicazione dell'intenzione di licenziamento, quindi dalla data di attivazione della procedura di cui vi avevamo parlato prima. Prima erano 270? 270 dalla intimazione del licenziamento. Oggi invece diciamo che c'è stato un tentativo di ridurre questa tempistica che da una parte va per comprendere la gravità del provvedimento, dall'altra per dare un po' più di certezza invece all'imprenditore di quelle che potrebbero essere le sorti di questo licenziamento senza aspettare i famosi anni che prima si avevano. Massimo dalla provincia di Verona, abbiamo davvero pochissimo tempo, un dirigente sindacale, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, semplicemente io volevo chiarire un punto. Sì. Se la causa del licenziamento è di natura economica, l'onere di inversione della prova di questa cosa è fatta ancora dal lavoratore o dal datore di lavoro? Ah, quindi una domanda, Massimo, la ringrazio. Avvocato Rotondi, qualora il lavoratore potesse dimostrare che dietro a questo licenziamento non c'è nessun tipo di motivazione di carattere economico, è a lui che spetta doverlo provare? Ecco, guardi, ne approfitto perché volevo proprio chiudere in questi termini. Ricordiamoci sempre questo, che la mera sanzione del risarcimento è unicamente collegata alla sussistenza di questo elemento oggettivo. Però la norma prevede la possibilità di essere reintegrati, quindi l'applicazione vecchia, laddove ovviamente dietro un presunto elemento oggettivo si nasconda invece un qualcosa che ha a che fare con la disciplinare, la ritorsione e quant'altro. Nel momento in cui il datore di lavoro licenzia per giustificato motivo oggettivo, deve provare la sussistenza del fatto. Laddove il lavoratore volesse o dovesse ritenere che sussistano diverse cause, tipo quella disciplinare o ritorsiva, sarà lui a doverlo dimostrare. Quindi c'è un'inversione, certo, dell'onere probatorio, come l'intento discriminatorio. Come giustamente aveva ipotizzato, appunto, assolutamente Massimo. Sì. Tenete presente che però l'onere probatorio di questo tipo non è un onere probatorio così specifico, cioè sono tutti elementi induttivi, per cui il giudice, che ha un ampio margine di discrezionale in questo processo, se si dovesse convincere a prescindere dal raggiungimento di una prova piena, potrà lo stesso optare per la reintegrazione. Benissimo, allora io mi rendo conto che questo tema avrebbe dovuto essere approfondito ancora per molte ore. Noi vi dedicheremo appunto ancora molte puntate, ve lo prometto, un impegno di Salvadanaio da qui ai prossimi mesi, quindi la riforma del mercato del lavoro in tutte le sue sfaccettature. Naturalmente approfitteremo ancora dell'aiuto dell'avvocato Rotondi, che saluto, grazie e buon lavoro, a presto. Grazie. Buona giornata. Grazie a Marco Lombardo per l'aiuto in redazione, a Matteo Com in assistenza tecnica. Noi naturalmente torniamo domani e parliamo di un'altra bella nota dolente che rovinerà tutte le nostre tredicesime. L'IMU, a domani.